Sara, Marzi, Enzino e alla parte tecnica Simone. Buonasera a tutti voi ascoltatori, buonasera a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici di Radio F, questa è Piazza Alta, siamo ancora noi per questa 20ª puntata. Ah, buonasera a tutti, simpatici amici. Uno ciao anche da Simone, che stasera lo sentirete molto meglio. Ciao Simone. Ciao a tutti. Ma senti, è qui con noi. Ma perché? Perché noi ci stiamo evolvendo. Ci siamo già evoluti. Esatto. Da Homo sapiens. Giro delle prossime 30 puntate avremo anche il pollice contrapposto che aiuterà a scrivere a macchina. Allora. E quindi no, diciamolo, perché abbiamo una nuova strumentazione, diciamolo, questa cosa. A breve metteremo anche una foto sulla nostra pagina Piazza Alta. Così rendiamo tutti partecipi. E musica, andiamo con il primo brano, ragazzi. A dopo. Avrei potuto fare l'ingegnere chimico. A inaugurare la scaletta di questa sera sono stati i Blu Vertigo con questo brano Sono come sono. Così ti prendiamo. E così ti prendiamo. Lo possiamo dire, sono blu. Blu. Come sono i blu? Sono i Vertigo. Come sono i Vertigo? Blu. Sono blu, a posto. Ci siamo già incartati dall'inizio. Bassa manovalanza, artistica. Ma perché abbiamo pubblicato adesso la foto di tutta la nuova attrezzatura. Siamo ancora quanti, un po'. Tra l'altro quanti colori prendiamo i microfoni. Esatto. Siamo un po'. È un po' una roulette russa, perché a me è toccato un arancione che io ero più per un colore primario. Ma hai la maglietta rossa. Scusami Sara, lui aveva più bisogno del primario. Questo. Siccome il primario ce l'ho già il reparto che mi segue assiduamente, va bene anche l'arancione. Invece non so se hai notato, il mio microfono è verde come la mia felpa, ma se vogliamo stare tutta la sera a parlare dei colori, ma come bambini diciamo, affascinati da tutti siamo questi che colori autoelogiamo, che abbiamo trovato stasera arrivando. Però allora, intanto, come ci stanno ascoltando i nostri... No, dobbiamo salutare prima. Di tutto prima. Le cose serie, è vero. Ciao Edi. È che non l'abbiamo detto durante la sigla. Ciao Edi. Scusaci Edi, lei mancava qualcosa. Sì. E quindi... Ci ha già ripresi mettendo mi piace su una foto e va bene. Sì, quindi Edi come sempre c'è. Faremo una puntata, tra l'altro, ancora non gliel'abbiamo detto, ma appena la incontriamo glielo diciamo, facciamo una puntata su di lei, la chiamiamo su, e ci racconterà la sua storia. Cercherà la sua di vita. Dirci come mai è così affezionata fin dalla prima ora al quali nostro programma, perché nemmeno noi abbiamo avuto mai questa cosa. E anche quali traumi ha vissuto per essere affezionata a una trasmissione come la nostra. I nostri li conosciamo. Sì, più o meno, più o meno i nostri, sì, o comunque li stiamo scoprendo. Piazza Alta. Ecco, questo nome non mi è nuovo. Questo fenomeno radiofonico che i nostri radioascoltatori possono ascoltare, e non lasciate stare, non sono solo ripetizioni sulla frequenza. Sì, dicevamo 101.2 in FM. Certo. Perfetto. Oppure in streaming www.radiof.it, o per chi fosse più dotato scaricando anche dotato tecnologicamente parlando, chiaro. Scaricando l'app per Apple o anche Android. Sì, che sarebbe la... Come si chiama questa app? Radio F. È facilissimo. Ma poi abbiamo una pagina Facebook, Sara. Abbiamo una pagina Facebook, che quindi i nostri ascoltatori ci possono seguire da lì, possono interagire con noi. So che durante la settimana che è trascorsa, insomma, ci sono... Allora, abbiamo fatto vedere alcuni loghi, perché avevamo detto che volevamo coinvolgere i nostri ascoltatori, esatto, per sapere i loro gusti, le loro opinioni. Qualcuno ha risposto, ci ha fatto sapere la propria opinione, noi continueremo anche stasera li riproporremo sulla nostra pagina Facebook, così rinnoveremo un po' l'interesse per questi loghi, e nel giro di un paio di settimane andremo a decidere quale sarà quello che da quel momento in poi ci rappresenterà. Bisogna sempre farsi la storia. Pensate, con un orzo in tazza piccola anziché in tazza grande, quello che può succedere, È la tazza piccola che dal 1976 Radio F. Ciao, veramente bellissimo. Adesso si è caricato ben bene. Ma l'argomento direi della serata, Sara, sì, tu che hai questo ruolo istituzionale, serata. Salvaci. Allora, poi siamo appunto, allora è la settimana santa, e guarda, quindi meno appropriati di noi, ecco, non ci sono, però ci proviamo per motivi contrattuali, siamo qui, ci proviamo. E quindi allora l'argomento è ovviamente un argomento inerente alle feste pasquali, e domenica è Pasqua. Stasera parleremo dei riti della settimana santa, ovviamente a Foiano, perché Piazza Alta è Foiano, è proprio il simbolo di Foiano. E di Foiano, quando parliamo dei riti della settimana santa, inevitabilmente dove va il nostro pensiero, Marti? Dove va? Ma no. Ci sono anche dei protagonisti, esatto, dei protagonisti che in questo periodo vengono veramente fuori, ma lavorano tutto l'anno per questi festeggiamenti. Sembra che durante l'anno stanno tipo nei bassi fondi di Foiano, lavorano nelle oscurità, nelle sacrestie. Non t'addentrare, vero? Sì, Ma chi? Delle persone, dei componenti della confraternita della Santissima Trinità. Ah. Che avremo? fra poco stanno arrivando, stanno salendo, le sentiamo per le scale, attendiamo i nostri ospiti per parlare con loro di vari eventi legati alla settimana santa, ma soprattutto santa, anche della storia e del presente ma anche del futuro. Fantastico. E ora prendo il ruolo un attimo di Sara dicendo che, che il prossimo brano è un brano a me particolarmente caro e che Simone può far partire per la mia gioia. No, non ora, quello dopo. Quello dopo. Ma anche questo mi è caro. Vai a stravolgere la scaletta di Simone. Ma anche questo mi è caro. Vai Beatrice, facci sentire. Allora, questa era Beatrice Antolini con il suo nuovo singolo, è il disco nuovo di questa disco, brano nuovo di ma questa sì, sera. Anni 70. In realtà l'album è del 2013, il brano, il titolo è Vertical Love. Avevo ragione a dire che era il mio preferito? Sì. Peccato che era tante cose, È per questo che t'ha confuso con sì, l'altro. Sì, ma voi perché non, voi mi sottovalutate nelle scelte musicali di Simone. Sottovalutate me nelle scelte sue, okay. Sì, boh, ci siamo, Sì, ci siamo. Possiamo iniziare finalmente a parlare. Sì. I nostri ospiti sono arrivati, tra poco ve li presenteremo. Però dicevamo, l'argomento di questa sera sono gli eventi legati alla Settimana Santa, quindi alle feste pasquali. Ragazzi, Enzino, Marzi, vogliamo fare intanto una carrellata di quello che sarà il programma proprio a partire da domani sera, eventi e appuntamenti. Sì, guarda, intanto appunto abbiamo già accennato ed è doveroso anche ricordare che l'antica compagnia della Santissima Trinità si occupa ancora oggi dei riti della Settimana Santa e lo fa dal XVI secolo. Io guardo i nostri ospiti, sempre loro, super dal XVI secolo. Sempre loro. Ci fossero delle inesattezze voi ci correggerete, questa è una... Devo dire che io allora non c'ero, Ecco, noi io avevo giustamente cercato la prima qualcuno che storicamente ha, diciamo, ci desse una mano in questa rievocazione. Beh. Ecco, allora la voce che avete sentito intanto è quella di Mauro Paffetti, che è il governatore della... della compagnia della Santissima Trinità, esatto, ma che dopo presenteremo per bene. Allora, vi dicevo, la chiesa della Collegiata sarà il palcoscenico privilegiato della cerimonia del volo del Cristo, che sarà sabato sera a mezzanotte. Il rito risale anche questo almeno al XVII secolo. La statua del Cristo risorto è del 1681 ed è conservata durante l'anno presso la chiesa della Santissima Trinità e viene accolto al suono di tre castagnole presso la chiesa della Collegiata. Qui viene portata a spalla, e poi ne parleremo molto meglio con i nostri ospiti appunto, da un gruppo di fratelli con l'abito della compagnia, i quali, percorrendo di corsa il tratto di strada che unisce le due chiese, imprimono alla statua il movimento ondulatorio che ha determinato il popolare termine di volo dato alla cerimonia. La domenica di Pasqua, dopo la messa della risurrezione, la processione del Cristo risorto è accompagnata dal rullo in piazza Cavour. Qui vicino, qui sotto. Sì, è tutto Piazza Alta, è tutto Piazza Alta. Ragazzi, tutto Piazza Alta. Se è Piazza Alta, è Piazza Alta. Poiano, se no si chiamava. Tutto da qui. Se no si chiamava Piazza Fra Benedetto, questo programma. No. Si chiama Piazza Alta perché. Ne parleremo. Di Piazza Fra Benedetto. Stiamo progettando un'annessione anche di altre piazze. conquistiamo. Con lo scoppio di. Pensate, circa. Petardo più, petardo meno, circa 25.000 petardi. La conclusione delle celebrazioni è affidata ad una cerimonia analoga il martedì successivo, dalle 17.30 in poi, con un rullo finale. Un rito religioso vissuto con partecipazione ancora oggi e di grande significato sociale e popolare, che ha le sue radici nella spiritualità del Seicento. Oh, ora. Bravo, Marzia, proprio. Le sai veramente come se fossero. Cioè, come se le avessi studiate. Quasi. Ora, le so come se le avessi vissute. È vero, perché anche te sei fatto parte, ma dopo ne parliamo. Non ora, ci sarebbe tutto un programma, ma noi lo vediamo velocemente. Provate a riassumerlo. Sì. Allora, oggi pomeriggio alle 18.30 c'è stata la lavanda dei piedi durante la messa celebrata. Anzi, è stata celebrata la messa dell'ultima cena, durante la quale è stata fatta appunto la lavanda dei piedi. Domani, Marzi, te lo dico domani, così almeno non che sei è venerdì pronto. Santo. Ci sarà alle 18.30 la celebrazione liturgica della morte di Gesù, alle 21 la grande processione di Gesù morto e della Madonna addolorata, che è la processione più partecipata dell'anno e si snoda lunghissima per le strade del paese. La partenza è da San Domenico. Sabato 19 aprile ci sarà alle 23 la veglia pasquale con la benedizione del cielo, dell'acqua e del fuoco e a mezzanotte il famoso volo. Mentre domenica alle 11 c'è la messa di Pasqua. Il 22 d'aprile, martedì, ci sarà la messa della benedizione di Gesù risorto, la processione e un ennesimo scoppio e il rullo. E poi, più avanti, il 31 maggio, ci sarà l'ascensione. Ok? A questo punto... Abbiamo fatto, mi sembra, una bella carrellata. Presentiamo allora... I nostri ospiti, la voce che avete sentito prima è quella di Mauro Paffetti, governatore della compagnia della Santissima Trinità. Ciao Mauro. Ciao. E poi abbiamo anche il tesoriere Marco Diani. Buonasera. E poi abbiamo Massimo Biribicchi, che ancora non svegliamo il ruolo per stasera. Cui è qua. Ciao Massimo. Buonasera. Buonasera. Allora noi ora andiamo con la mia canzone preferita. Quindi della te serata. La lascio annunciare, grazie, presentala. Allora questo è il più grande autore non vivente, purtroppo, sulla piazza italiana. Non sto a dire il titolo perché lo farà dopo Sara, come sa fare lei, però è Rino Gaetano e ti ringrazio, Simone. Vecchi solai e ciminiere, lavatoi al decimo piano, fumo che sale in paradiso e gli angeli cadono giù. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'arato, il pancetto, il trivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. Una mansarda in via condotti, mochette, plafon, cassettoni, giovani artisti e vecchie tardone si realizzano nel nobile bridge. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'arato, il pancetto, il trivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. Giovane bello, divo e poeta, con un principio di intossicazione aziendale, fatturato lordo, la classifica che sale, il resto lo trova nei. la zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'aratro, il faccetto, il trivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. Castoro, visone, il conte dell'acqua, salmone, cardiale, champagne, la grande soubrette, Brigitte Lacagne, coperta di cincillà. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'aratro, il freccetto, il trivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'aratro, il freccetto, il trivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. Inoltre l'acido chirobutanico che combatte il disseccamento si massaggia sul visore decongestionale. Altro che basta per ottenere una roba che si renda totalmente rossa. All'inizio dell'anno dominerà l'influsso raggiante di Marte, situazioni più tese a causa della a fiori diversi ma intonati in colore. Sanzo che combatte il disseccamento si massaggia sul viso da decongestionare. Nuova che si è naturalmente rosso. All'inizio dell'anno dominerà una pasta sablé omogenea, lasciala riposare in luogo fresco finché si rassodi. E inoltre l'acido fetta. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'arato, il falcetto, il pivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. La zappa, rastrello, la forca, l'aratro, il faccetto, il trivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. La zappa, il tridente, rastrello, la forca, l'aratro, il faccetto, il trivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. La zappa, il tridente, rastrello, la forca, l'aratro, il faccetto, il trivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. La zappa, il tridente, rastrello, la forca, l'aratro, il faccetto, il trivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. La zappa, il tridente, rastrello, la forca, l'aratro, il faccetto, il trivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. La zappa, il tridente, rastrello, la forca, l'aratro, il faccetto, il trivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. La forca, la rata, il faccetto, il trivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, la rata, il faccetto, il trivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, la rata, il faccetto, il trivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'aratro, il falcetto, il crivello, la vanga. Questo è il titolo del brano di Rino Gaetano che abbiamo appena ascoltato. Brano tratto dal celebre album Non te regge più. E sarebbero anche gli strumenti di lavoro più adatti a me e a Marzi, ma è che ci... e non è comunque facile, perché ci sono alcuni che... hanno anche saputo usare, assolutamente sì, sì, decisamente. Il brano era veramente bello, io stasera lo rimanderei per tutte le volte che ci sono a posto, allora loopato. Bene, vabbè. Una volta che l'abbiamo annunciato poi va avanti da solo fino alla fine della puntata. Ma torniamo all'argomento, sì. Perché Enzino, Marzi, ci avete fatto un excursus di quello che è il programma di questa settimana santa, quindi sia dal punto di vista degli eventi che proprio gli appuntamenti, gli orari. Ora però andiamo a conoscere meglio la Compagnia della Santissima Trinità. Abbiamo il piacere di avere i nostri ospiti, quindi lasciamo la parola a loro. Intanto chiedo a Mauro e Marco da quanti anni fate parte della Compagnia. Inizia Marco. Io allora ho iniziato a far parte della Compagnia diciamo dall'età di 15-16 anni, seguendo le orme di mio padre, che era già dentro, quindi sì. Una sessantina d'anni fa, allora sì. Diciamo non che sono l'età così. Vabbè, diciamo che qualche anno, non tantissimi, ma qualche anno. E sei arrivato fino al ruolo appunto che è adesso, che è quello di tesoriere, che è un ruolo importante, voglio dire, perché diciamo di sì, che... quando uno amministra i soldi e volantino E? Lui è uno che fa il volo. Ecco, di questo ne parliamo dopo, che è la cosa più, cioè, più importante. È una delle cose più affascinanti. L'uno e l'altro. Invece, la caratteristica più importante del tesoriere di una compagnia come questa è la parsimonia, chiaramente. Ah, beh, se non è parsimonioso in una compagnia così, certo. Mentre tu, Mauro, invece, da quanto tempo, quanti anni sei dentro la compagnia? Io sono a 35-37 anni, però la mia storia è la storia di una mamma che, per risparmiare per il carro funebre, perché era il carro funebre arruolato alla compagnia Santissima Trinità, sì, e veniva dato gratuitamente in uso al momento del bisogno. Certo. Io sono stato segnato fin da bambino in questa compagnia, per cui io ho 55 anni di appartenenza alla compagnia. Perché tua mamma era previdente, ha detto, per un bisogno, non si sa mai, parto prima. Ha mantenuto ancora, è in vita ancora la mamma. Per fortuna, quindi voglio dire... Non paghiamo più la tassa del carro funebre, però di buon auspicio. Sono diventato governatore grazie a questa tassa che probabilmente... ha voluto dire tanto per certo me. Certo. Da quanti anni sei governatore? 5-6 anni. È un ruolo importante? No. viva la sincerità. Consapevolezza, però è impegnativo, sai. Beh, no. Però deve essere impegnativo comunque. Ci vuole solo la voglia e l'amore per questa cosa che nasce dai foianesi, perché io l'ho ereditata dai foianesi, e dallo spirito che ci insegna a voler bene al Signore. Certo, immagino. In ogni caso, io a Mauro devo chiedere una cosa, perché se non erro, lui è uno dei promotori più importanti quando c'è stato bisogno di mettere mano alla ristrutturazione della Chiesa della Santissima Trinità. Sì, perché dopo 40 anni che non ero sposato ho deciso di sposarmi. E volevi che la chiesa fosse... E siccome la chiesa stava crollando, io ho cercato di fare la mia parte. Mi ricordo bene questa cosa perché Mauro fu identificato anche con questa opera, che fino ad allora nessuno si era voluto o potuto prendere la briga di mettere in atto, e è stato un lavoro abbastanza lungo e importante, però mi sembra che abbia dato dei buoni frutti, anche perché noi qui a Radio F, qui in Piazza Alta, abbiamo proprio vicino, siamo di fronte, la Chiesa della Santissima Trinità. Perché è importante la Chiesa della Santissima Trinità? Anche perché al suo interno ci sono sia, ditemi se sono nel giusto, sia degli importanti dipinti, ma vengono anche conservati durante tutto l'anno delle statue, che poi nel periodo pasquale, dei simulacri che poi vengono utilizzate per le feste pasquali. Quali sono questi simulacri? Come è il Cristo risorto, che è quello più famoso, con cui facciamo la festa, e poi è il Cristo della canna, che se non erro è anche uno, insieme al Cristo della colonna, che è uno tra i più, diciamo, amati dai foianesi. Sì, però è una storia un po' più lontana, e cui tanti giovani probabilmente hanno poca visione di questo Cristo. Però infatti è anche sempre deposto lì e è visibile a tutti. Bene, io direi che la cosa è affascinante davvero, e però dobbiamo alternare un po' la musica. Oh, finalmente la prossima canzone, che non conosco, è una di quelle che piace a me. Ah sì, dopo una di quelle che piace a Enzo, una delle sue preferite, la prossima forse. Sicuramente. Minute, minute, minute, nights go Questi erano gli Smith. Il brano che abbiamo ascoltato è Baby It's You, che è un brano scritto da Burt Bacharach nel 1961 e poi appunto è stato ripreso dagli Smith e l'ha ripreso anche Quentin Tarantino nel film Prova di morte. Così diciamo anche che il nostro Simone è un appassionato di cinema e quindi questo grande appassionato. E ti è piaciuta, Marci? Ma era una delle mie preferite nella mia playlist serale. Prima, no? Quindi... No, ecco, non ti dico che è il numero uno, ma 2-3 sicuramente. Bisogna vedere partendo da dove nella sua classifica di stasera. Tra un po' saluteremo anche un po' di amici, tanti che ci stanno seguendo, stanno interagendo con noi, esatto, Enzo. Per cui dobbiamo salutarli, ma ora non ci riesco, quindi abbiamo proprio dei problemi tecnologici. Io sì, ho fatto una promessa, scusate, vi stupirò stasera, voglio salutare una donna. Sì, Lulu, ciao mamma. Lulu. Che non è detto. Sì, no, in effetti no, potrebbe no, essere. Può essere tutto, Lulu, anche sì, potrebbe anche essere un animale. Un cane, perché Lulu perché è bellissimo. No, ma se ora no. Ciao Lulu, per l'amore, ci mancherebbe altro. Ci siamo incartati come sempre a ogni volta che rientriamo in onda. E allora ripartiamo. Allora, sì, stavolta sì. Sì, è vero, hai ragione. Bene. Quindi Marzi, salvaci te e fai delle domande intelligenti. Allora, come si entra? Voglio chiedere ai nostri ospiti nella confraternita della Santissima Trinità. La domanda la faccio a Mauro, che è il governatore. Sì, storico, perché non ce n'erano stati altri primi. Ma sei il primo governatore? Sì, ma il ruolo c'era precedentemente. Comunque noi non si conoscono quegli altri prima, per cui io sarei l'ultimo. E il primo e l'ultimo. Vabbè, per entrare nella compagnia, tempi indietro, era molto complicato. Tra l'altro era una storia che veniva tramandata da padre al figlio, poi dopo questa storia qui continuava per generazioni. Da quando sono arrivato io in questa cosa qui ho cercato di intravedere uno spirito diverso, cioè che non dell'esclusione ma dell'inclusione, cioè prendere tutti, non selezionare o scartare qualcuno, no, prendere tutti comunque, sì. Un ruolo gli si troverà comunque da fare, qualcosa da fare. Questo comunque è sempre il solito concetto che dicevo di prima, cioè il Signore non scarta nessuno, questo qui è il concetto. Certo. E questo ha dato dei frutti inaspettati, tant'è vero che quando sono entrato io eravamo arrivati ad essere una decina, 12, 15 scarsi. Quindi pochi, giusto? E l'ultima cena che si è fatto, che non è quella di stasera, ma si è fatto in preparazione di questa festa 3 giorni fa, eravamo quasi 70, però, 60 presenti, 70 gli è dispiaciuto di non partecipare. Però. Quindi da bambini che hanno un'età da 6-7 anni in su, compreso i nostri, e per arrivare a persone che ormai della compagnia comunque hanno tutto il ricordo e la stima, che hanno 70, 80 e anche più anni. La mia mamma per esempio non è venuta alla cena, ma ha 97 anni, ma sempre parte della compagnia. Spettacolo, veramente bello, bello. Per entrare non ha un ruolo, è lasciato alla volontà di ognuno. La domanda basta chiederlo a quelli della compagnia e qualcosa da fare si trova sempre. Ecco, e sono i benvenuti. Ci sono dei ruoli ben delineati all'interno della compagnia oppure no? Cioè, proprio delle cariche, a parte te che sei il governatore e il tesoriere. Le cariche vengono percepite al momento che uno fa domanda, per cui se può capire se è più l'attitudine a una cosa oppure a un'altra. E questa compagnia si riunisce tutte le volte che c'è una festa, quindi è al servizio della Chiesa, okay. E di tutte le manifestazioni che la Chiesa comunque richiede la nostra presenza. Noi siamo in funzione di questo, anche se lo spirito è uno spirito che è nostro, personale, l'identità è nostra della compagnia. Quindi va di pari passo, diciamo, in parallelo anche con quello che è diciamo le manifestazioni liturgiche di tutto l'anno. Ecco, ti faccio una domanda proprio da profano, sì, perché io vi vedo, o meglio, l'occasione principale in cui vi vedo è questa settimana qua, no? E penso che voi abbiate un ruolo solo durante questa settimana, ma mi sembra di capire che invece non è assolutamente così. Era in tempi passati sì, perché tutto si concentrava in 3-4 giorni, che sarebbero stati questi prossimi, mentre ora invece è una cosa che dura tutto l'anno, e negli anni comunque è durata, specialmente negli ultimi 5, quindi siamo stati a Roma dal Papa, siamo stati in altri posti, in altri paesi, o processioni, o comunque cose sempre attinenti al sacro per ora. Okay. Quindi vi chiamano anche da altri paesi? Sì, anche se le compagnie sono state dismesse tempi indietro e ora sono compagnie e sono con pochissime persone, il numero delle compagnie, le persone che frequentano è bassissimo. Noi siamo fra quelli più numerosi, e, per esempio, in Duomo il Vescovo, ogni volta che c'è la celebrazione del Corpus Domini, noi siamo quelli che porta la processione che snoda per Arezzo e altre situazioni. Tra l'altro, chi è dentro la compagnia della confraternita c'ha anche una, non so se si chiama divisa, una cappa, io la chiamavo una cappa. Sì. Di che colore è? Che colori ha? I colori sono stati cambiati per epoche, comunque diciamo il rosso scuro comunque, però quest'anno si sta facendo si sta rinnovando proprio quest'anno i colori della divisa, e le divise saranno personali quest'anno, ognuno avrà la sua divisa da poter portare a casa e saranno date a tutti, e i colori saranno un colore cardinalizio, il colore amaranto. Una volta, se non mi sbaglio, erano un numero contato di cappe, e diciamo l'onore anche più grosso, più importante, era proprio quello di raggiungere la cognata cappa per poter poi nei momenti opportuni poterla indossare. E questo non lo so se è veramente così, probabilmente la cappa ce l'aveva chi aveva i soldi. Ecco, allora quegli altri la sospiravano parecchio, e quelli che diventavano vecchi probabilmente la dovevano cedere. Ma la cappa, sì, ma il numero è sempre stato limitato delle cappe. Sì, era limitato, contate, era limitato anche perché non erano tanti quelli che facevano, che erano all'interno della compagnia, che facevano il volo, quindi erano... Poi esisteva due cose: la compagnia della Santissima Trinità, che svolgeva ai tempi indietro dei ruoli all'interno della chiesa, e poi la struttura che faceva il volo, cioè questa festa precisa. Erano due cose separate, però tutte all'interno della stessa organizzazione, per cui quelli che facevano il volo avevano questa rincorsa alla cappa, rincorsa a questo desiderio di volare, eccetera eccetera. Quell'altri pensavano a tutte altre cose, funzioni o tutto quello che comunque competeva alla chiesa. Era tutta una cosa unica, un po' dopo è stato diviso. L'argomento è interessantissimo, infatti siamo, rimaniamo tutti affascinati però ogni tanto, essendo una radio, dobbiamo passare anche un po' di musica. Un po' di musica, e allora Simone è pronto. La prossima canzone piace, è la preferita di della Sara. È la forza. Mia, stavolta la mia, è il mio turno. Caused a fire in New York. Where is my self-control? You gotta learn to be thankful for the things that you have. Now bathe my idle soul with desire. Era il mio brano preferito per stasera dal quarto album degli inglesi Editors. Abbiamo ascoltato A Ton of Love e l'album è uscito nel 2013. Il titolo è The Weight of Your Love. Quindi scusa, era il mio sta brano. Aspettando. Ancora non è tornato. Ma dobbiamo fare un po' di saluti come promesso precedentemente. Sì, è vero, ci siamo. Iniziamo da lontano e salutiamo un amico che ci ascolta dalla Spagna, Farci Maurizio, che è un collega, un amico di Simone. Salutalo Simone. Ciao Mau. Ha fatto anche con la mano. Ce l'avamo preparato. Hola. Hola. Ustede. Abbiamo discusso. Ciao. Ciao. Finito. Vabbè. Lo salutiamo noi con un hola. Hola hola. Poi salutiamo Maura, il Bigo, sono tanti stasera. Francesca, Gio Gargani, Rachele, che tra l'altro Rachele ha fatto anche dei commenti sui nostri loghi che stiamo postando e invitiamo tutti a fare i loro commenti, così che decideremo. Ve ne metteremo altri, però vogliamo sapere che cosa ne pensate, perché poi dai commenti degli ascoltatori decideremo quale logo prendere per piazzare. Giusto. E poi salutiamo ancora Maura, Monica, Marco, Riccardo da Milano, Cinzia, che adesso sa di Cinzia cosa adesso sa stiamo parlando, certo. E Andrea. Io ho finito, ma dove mi puoi ridare l'elenco telefonico di Fogliano? Per fortuna non hai letto anche i cognomi e i numeri di telefono. Qualcuno c'era, l'ho omesso. Sono tutti dati veri, sensibili, quindi. Sono tutti verissimi. Bravo, fai bene a specificare. No, perché basta andare sulla pagina, esatto, e si può verificare tutto. Noi siamo trasparenti. Sei agnostico. Radio Verità. Radio Verità. Radio F dal 1976. Così lo riporto. Così lo riporto. I nostri ospiti, Sara. I nostri ospiti. No, dicevo, ricordiamo che stiamo parlando con gli amici della Compagnia della Santissima. Ma io, Marcello, ti guardo di tanto per vedere se. Sono sveglio. Ma abbiamo anche Massimo. Sono un po' catatonico, ma sono sveglio. No, si è inserito bene. Il tempo stasera era giusto. Stasera mi stupisce. Il tempo adatto, quindi abbiamo anche un altro amico che è Massimo, che non fa parte. Lui è un po' l'uomo nero del mazzo di questa sera, però è pescato nel mazzo. Esatto. Ora, Marci, senza esserci preparati niente, ti fai una domanda che possa essere, vedi, sto strozzando direttamente, inerente alla serata. Sì, però scusa, Enzo, vorrei le cuffie anch'io. Mi succede. Abbiamo anche queste. Tranquillamente, siamo dotati. Non so se arrivano. Arrivano. Sì, arrivano. Ci senti? Benissimo. Chiudete la cabina. Ne farò più di una di domande. Massimo, fai parte della confraternita della Santissima Trinità? Ho quattro risposte. Vorrei l'aiuto a casa. No. Ora, onestamente, sì. Diciamo, tu sei il nostro ospite, diciamo, come se, sentinella. Sì, a sorpresa. Allora, in processione. Quando viene portato il simulacro in processione, da te vorremmo sapere. Quali sono normalmente gli argomenti della processione trattati? Perché chiaramente c'è chi segue con una certa attenzione partecipazione, però sappiamo che tu sei tra quelli che invece stanno un po' sulle retrovie. Capirai che gli argomenti sono vari, no? Chiaro. Soprattutto cambiano a seconda dell'età. Io mi ricordo quando ero ragazzo, l'argomento quasi bambino, l'argomento che era più trattato erano le formazioni del campionato di calcio collegiata Piazza Alta. Che e su questo faremo. Tu, ecco, come si vive? Tu sei nato praticamente. Certo. Sono un collegiatino doc, diciamo. Ecco, quindi con Piazza Alta c'era una sana rivalità, ma insomma abbastanza profonda. Ecco, come si vive, come si cresce, come si passa dall'età pubertale. Ma che stai dicendo? Lascia stare. Sono nato in collegiata nel periodo di Pasqua. Ma questo era un pochino più difficile. Qui siamo già all'età successiva, insomma, con qualche prurito diverso, non solo ai piedi, insomma, capisci bene. Marcello no, però insomma ti capisci. Ma che lui lo sapeva, perché faceva parte, insomma, sì, sì. Lui da via del bottaio veniva verso. Si passava più che alle formazioni con le ragazze che erano in processione, quindi addirittura ci si scambiava la posizione a seconda degli interessi, no? Ricorda un po', scusa, ti interrompo, il film Non ci resta che piangere, quando in chiesa gli uomini tutti da una parte, sì, le donne le guardavano fisse. Sì, il nostro gruppo era soprattutto piangere, il resto l'avevamo già lasciato un po' da parte. Meraviglia, se la scomunica. No, ma infatti chiudiamo qui, perché vedo il governatore che ci guarda con occhio addirittura adesso ci punitivo anche, e allora torniamo a parlare anticlericale. Abbiamo fatto solo un piccolo excursus su quello che è chiudiamo parentesi. In realtà l'intervento di Massimo non è così poi peregrino, perché in effetti, se ricordo bene, questa commistione tra sacro e profano, diciamo un po' così, è un fil rouge che un po' ha seguito tutti gli anni, almeno che io mi ricordo, perché in effetti la notte di Pasqua, dopo il volo, diciamo la messa della notte di Pasqua è una messa che a Foiano, almeno nella collegiata, che è una chiesa grandissima, almeno sul momento iniziale non è che ha l'attenzione proprio di tutti, perché c'è chi interviene per vedere il volo e c'è chi oltre al volo vuole poi partecipare chiaramente alla funzione. Sì, se presta per un bel mercato. E questo se vado a memoria, ma se non erro, nei tempi passati ha creato anche delle tra virgolette discussioni anche tra i parroci e Il compianto Don Vitaliano era uno di quelli più se la prendeva per questo era nel dopo volo, però sì, il dopo volo, nel dopo volo, esatto, quando poi iniziava volo. Esatto, quando c'era tutto quel momento era veramente lui tentava di tenere i piedi in chiesa e invece la gente già partiva e andava. Sì, è vero, mi ricordo. Visto che il tempo è pochissimo e avremo ancora tante cose di cui parlare, sono costretto a passare immediatamente, senza essersi messi d'accordo, a parlare del rullo, perché il volo lasciamo per ultimo. Il rullo da noi, Enzo, può essere anche interpretato, sappiamo bene di che cosa parliamo. Ma visto che ci ascoltano anche dalla Spagna, certo. Il rullo che cos'è? Infatti lo facciamo spiegare ai nostri ospiti. Poi lo conoscono bene. Certo. Spiegateci un po', per Marco, chi i nostri amici dalla Spagna ascoltano, spieghiamo in poche parole che cos'è il rullo. Diciamo, il rullo sono una serie di petardi, che da noi si chiamano castagnole, che vengono stese lungo tutto, diciamo, i vicoli qui di Piazza Alta, che si va dal vicolo qui della Santissima Trinità fino ad arrivare sotto le logge del comune. Sì. Si parla all'incirca di 4.000-5.000 petardi che dal momento in cui viene dato fuoco al primo petardo partono piano piano, che si parte con una fila o due file, tre file, fino ad arrivare proprio sotto le logge, che diventano 10 file, quindi oltretutto sotto degli archi il rumore diventa assordante e viene chiamato rullo per questo, perché il rumore continuo di queste castagnole che esplodono creano questo vuoto, diciamo, che si sente a sequenza. Ecco, io sarei curioso perché, diciamo, queste sono notizie importanti che vanno date anche con precisione. Il vero numero e chi conta i petardi? Ma chissà, le conta chi riscuote? Mi sembra giusto. Un'ottima risposta. Ne riscuote 5.000, se sono 7.000 sono 7.000. Ecco, e nel totale comunque annualmente sono sui 12.000. Sono 12.000. Esatto, perché il rullo avviene la domenica mattina di Pasqua, e il martedì, diciamo, in replica. Abbiamo aggiunto un'altra esperienza nuova, che è l'ascensione dopo 40 giorni. E questa cosa qui è stata dedicata a tutte le associazioni, e le associazioni parteciperanno in notturna, speriamo numerose. Già il primo anno è già stato molto bello come serata, e questa è la ripetizione, e sarà sempre così fino a che Dio vorrà comunque. Certo. E speriamo che il paese una volta tanto si svegli e che abbia la voglia di partecipare tutti, senza col comune, l'unico ideale, l'unico di essere presenti. E con queste note andiamo con l'ultimo brano e poi ci ritroviamo e finalmente parliamo. Questo anche piace? Questo piace a Simone. Piace a Simone tantissimo, vero Simone? Certo. Ancora tu. Non mi sorprendo, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domande inutili. Stai come me. E ci scappa da ridere. Amore mio, hai già mangiato uno? Ho fame anch'io, e non soltanto di te. Che bella sei, sembri più giovane, o forse sei solo più simpatica. Oh, lo so. Cosa tu vuoi sapere? Nessun amore. Ho solo ripreso a fumare. Se ancora tu, purtroppo lo lega. Incorreggibile, ma lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile, lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile. La, la, la, la. Sei ancora tu, purtroppo l'unica. Ancora tu, incorreggibile, ma lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile, lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile. Però Rising Murphy, ex cantante dei Moloco, ha proposto questa cover di un brano noto di Lucio Battisti, Ancora tu, brano che abbiamo lasciato sfumare in sottofondo perché il tempo stasera è veramente volato. Sì, l'argomento tanto è interessantissimo. Beh, è volato, è volato. Andiamo via, eh. Arrivederci a tutti. No. 1976, Sara e Radio F. Siamo arrivati all'ultimo intervento, è quello che aspettavo con più con più ansia, in cui parleremo del volo. Allora, chiediamo ai nostri ospiti, facciamo conto che ci ascoltino solo dalla Spagna, quindi vi chiedo, che cos'è il volo? Domandelo prima al nostro ospite. A lui devo fargli una domanda dopo, alla fine, che quando avete spiegato dopo gli chiederò una cosa. Diteci un po'. Introdurre il volo è quella cosa che se gli stai davanti ti prende in pieno, ti fa parecchio. Parecchio. Ecco, mi sembra. Quindi devi fare attenzione. No, vabbè, diciamo così, in parole dal povere, è praticamente la statua. Nell'entrata della statua in chiesa, e questa statua viene portata a braccio da 8 persone. La statua pesa 4 quintali e mezzo. La statua entra diciamo di corsa, a spinta, in volata, appunto, e ha un percorso. È un percorso, diciamo, a U, perché entra dal portone principale della chiesa, della collegiata, arriva fino quasi all'altare, per poi svoltare a 90 gradi, a 180 gradi. A 180 gradi, e poi viene posizionata su una pedana. Posta quasi al centro della chiesa. Allora, io chiedo... tutto in un minuto. Scusami, Enzo, perché voglio precisare una cosa, che tutto questo viene fatto di sorpresa, perché il portone della collegiata è chiuso e con tre martellate poi viene aperto, e chi si chi porta il Cristo risorto si trova in un ambiente totalmente buio, quindi anche ambientalmente difficile, e deve cominciare a correre per portare in velocità il Cristo risorto nella pedana di cui diceva Marco. Ecco, io magari radiofonicamente riusciamo a farlo capire poco, ma in realtà è un'operazione molto che agli complessa, occhi molto complica. Complessa, e agli occhi di magari dei profani come me può sembrare anche molto pericolosa. Tra l'altro, è una cosa importante, viene portato a braccio e non come pensiamo tutti noi a spalla. Cioè, voi ovviamente la domanda è retorica, nel senso che so la risposta, vi allenate? No, perché non è che esiste. Non ci sono prove per questa cosa. Ecco, allora, buona la prima, diciamo, e basta. Come succede? Per esempio, tu sei un volantino, giusto? Giusto. Ecco, come succede il giorno che come viene deciso che da questa volta uno diventa volantino? Viene deciso come decidevano i vecchi: chi lavora mangia, chi non lavora perché non mangia. Perché è un grosso onore essere volantino, perché giusto? Chi va a raccogliere i soldi per il paese e lo fa per 4-5 settimane, raccogliendo questi soldi ha lavorato, e quindi ha diritto a un merito, a entrare, a far parte di quelli che saranno scelti, ma non è detto comunque che sarà scelto. Questa scelta viene fatta per un sistema che è coordinato a secondo la persona, l'esigenza del posto, 8 posti, dove si gira, dove è più rischioso, meno rischioso. L'ultimo che entra, sarebbe uno per ogni anno. Sì. C'è un rinnovo che gira ogni anno, sempre. Ma nelle 8 postazioni ce n'è una che è la più difficile? Sì, e quella, diciamo, che è la più tra virgolette semplice. Lui la conosce bene. Sì, ecco. Sì. Cioè, dici, Marco. Diciamo, le posizioni davanti, diciamo, i primi che entrano, che si trovano davanti, diciamo, prima il portone che si apre e poi, tutta la gente, la folla davanti, è chiaro che sono le posizioni più rischiose, anche perché sono le posizioni che poi decidono quando girare. Esatto, il tipo di corsa e come e quando girare, insomma, ecco. Quindi immagino che i nuovi entrati inizino dalle posizioni di dietro, diciamo, il piedistallo, perché è una posizione tra virgolette un pochino più sicura, ecco. Ma io non vi chiedo di spiegarci l'emozione, perché però comunque quando sei lì, che succede? Cioè, ti penti di aver l'emozione detto... parte da qualche giorno prima, immagino. Si inizia a dormire stasera, parecchio meno già da stasera, eh? Sì. Però l'emozione dovrebbe essere un'altra. Mi sono domandato spesso, ma perché si fa questa cosa? E la risposta, dopo tutti questi anni di permanenza in questa compagnia, è che dovrebbe essere la sensazione di quando il Cristo ha diciamo oltrepassato quella tomba, no? Quindi l'emozione è della gente che ha visto questa cosa. Certo. E quindi i nostri si dovevano inventare qualcosa per emozionare a tale sistema, e questo noi foianesi siamo stati bravi. È forse vero. Il più grande teatro in assoluto della resurrezione, e questo i miei amici sono bravi in questo, io ne faccio parte e sono fiero di questo. È vero, è vero. Compreso il nostro Don Luigi, che ringrazio di seguirci in queste operazioni. Immagino. Che ha fatto fatica magari i primi tempi a capirci. Ci credo. Perché non era di Foiano, ma di Castiglione, e veniva da altre parrocchie, e ora è entusiasta anche lui di questa cosa. Tra l'altro, io che per fortuna ho anche partecipato, l'emozione di chi fa il volo è anche quella un po', diciamo, di stare un po' sopra, diciamo, con i piedi staccati da terra, e c'è la gente intorno che in un certo senso ti fa anche da sostegno, non solo quando entri ma per tutta la volata, e quindi è diciamo una cosa, anche un'emozione anche condivisa, sia tra chi, diciamo, si dà da fare per il volo, ma anche per chi è lì perché ha interesse al piacere, all'emozione che tutto vada bene e che venga, diciamo, la massima partecipazione per l'evento. Io faccio l'ultima domanda, perché abbiamo sforato, se abbiamo fatto tutti i record, però l'argomento era veramente interessante. Sì, certo. Io per esempio per molti anni ho visto il volo da dentro, che in realtà è lì dove si deve vedere, e tra l'altro chi lo vede non dalle prime file ma lo vede da un po' dietro ha proprio la sensazione di vedere questo Cristo che vola, perché non vede il piedistallo su cui è appoggiato, per cui sembra proprio che voli. La sensazione è questa. Esatto, ed è bellissimo. Però c'è anche molta gente che sta fuori. Ora non so se la domanda è da fare a Massimo, che è uno dei più grandi cultori di questa cosa. Però secondo te Massimo, è meglio vederlo da fuori, fermo restando che dentro è bellissimo, vederlo da fuori ha un fascino? Magari la preparazione dei volantini che si stanno preparando. Secondo me la magia la vivi da dentro, proprio per quello che dicevi ora, cioè che c'è tutta questa atmosfera, queste porte che si chiudono, il buio dentro la chiesa, all'improvviso questi colpi che simulano l'apertura della grotta e lo splendore di Gesù che risorge. Vederlo da fuori, per chi ne fa parte, è un'altra emozione, ma però si svela un po' la magia, insomma, certo, no? Certo, perché certo. C'è la preparazione, quindi forse, diciamo, consiglio di vederlo da dentro la chiesa, certo. Ragazzi, noi abbiamo nostro malgrado, dobbiamo finire. Sì, dobbiamo chiudere. Allora, l'invito è quello di venire a vedere il volo, quindi sì, e anche di aver trasmesso anche qualche emozione, diciamo, che per chi non l'ha mai visto lo inviti a venire al volo e anche a tutte le altre manifestazioni di questi, certo, giorni, e anche magari se c'è qualcuno che ascoltandoci ha preso voglia di partecipare, di venire in confraternita, in compagnia. Comunque vi volevo solo dire che il Signore le emozioni non le risparmia nessuno, chi viene avrà la sua emozione, certo, quindi basta venire. Noi ci sta da regalare qualcosa, ma per mano sua. Immagino, senza dubbio. Mi Sara. Sembra, non aggiungerei altro, chiuderei su queste parole. Ringraziamo allora Mauro Paffetti, governatore della Compagnia della Santissima Trinità, Marco Diani, tesoriere, e Massimo, e Massimo il pubblico. Che è il pubblico. Grazie a tutti. Direttore delle processioni. Direttore esterno delle processioni. L'appuntamento è per giovedì prossimo. Giovedì prossimo, buona Pasqua, ovviamente. Aspetta, da che anno? Fagli dire da che anno, scusa. 1976. Allora, buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua anche a Simone. Buona Pasqua a tutti. Bravo, così mi piace. A giovedì prossimo, con Piazza Alta. E ciao. Domani su Facebook. In tarda mattinata. Sempre in tarda mattinata. Con calma. Avete ascoltato Piazza Alta? Un programma di e con Sara, Marzi, Enzino e alla parte tecnica Simone. One.